di stare avendo un massiccio attacco di panico. Gira la testa e sento che sto cadendo nel baratro. Adesso che il gioco è scoperto, non importa se vinco o se perdo. Seguo quel suono e mi ci abbandono, anche se mi son perso. Risonanza, l'universo è una danza.